GR Sport. Buongiorno, in apertura del ciclismo Tour de France, il tedesco Stefan Schumacher ha vinto la quarta tappa della corsa transalpina, la cronometro di 29,5 km sul circuito intorno a Cholet. Un primo posto che gli ha fruttato la maglia gialla, sentiamo. Il Tour è un grande giro e anche la maglia gialla gira da un corridore all'altro. Dopo Valverde e Feliu, ecco Schumacher in attesa che domani cambi ancora col primo arrivo in salita nel massiccio centrale a Superbest. Il tedesco è soddisfatto, cade l'Evans, il grande favorito anche, ma felici lo sono anche i nostri Nibali e Cunego, dopo la crono di ieri a Cholet, sono rinfrancati. Il siciliano è nono nella generale a meno di un minuto da maglia gialla, il veronese è uscito meglio del previsto da una prova che non è certamente il suo terreno ideale. Non sorride neanche un po' Alejandro Valverde, che tra i big di classifica è quello che è andato peggio, e il nostro Riccardo Riccò, che è già uscito di classifica, naviga oltre 4 minuti dal primo. Oggi tappa interlocutoria da Cholet a Châteauroux, tappa per uomini veloci. Qui 10 anni fa vinse uno dei velocisti più forti di sempre, il nostro Mario Cipollini. Piero Augusto Stagi, Gira 24, Il Sole 24 Ore, Cholet. E passiamo al calcio. Subito in salita il mercato dell'Inter di Mourinho. L'esito della prima mossa ufficiale, quella avanzata al Chelsea per Frank Lampard, è stato un deciso rifiuto, ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di arrendersi. L'Inter continuerà ugualmente a insistere per portare a Milano Lampard. Sentiamo il presidente nerazzurro Massimo Moratti. Hanno risposto come nei loro diritti, che non hanno intenzione di trattare, poi vedremo, l'offerta c'è, però comunque confermeremo, insomma, quello che è. Però non vogliamo neanche creare dei problemi esagerati, insomma. Rugby, l'Italia torna nel ristretto gruppo delle prime 10 potenze mondiali. Il servizio. Un bel risultato ottenuto mentre il rugby azzurro è in vacanza. Nel ranking mondiale aggiornato dall'International Board, in pratica la FIFA della palla ovale, l'Italia rientra nella top 10. Il 10° posto è conquistato ai danni di Figi, Parisse e compagni hanno guadagnato punti grazie al successo esterno sull'Argentina di fine giugno, un prezioso 13-12. Intanto la Nuova Zelanda ha iniziato nel migliore dei modi il Tri Nations, non solo ha battuto il Sudafrica campione del mondo, ma lo ha anche scavalcato tornando in prima posizione. Pure la terza piazza cambia padrone, ora è dell'Australia, mentre l'Argentina si ritrova quarta. E le europee? Sono cappeggiate dall'Inghilterra, che è quinta, e viene seguita in rapida successione da Galles, Francia, Irlanda e Scozia. Per curiosità, la classifica è composta da 96 nazionali e l'ultimo posto è occupato dalla Finlandia. Giacomo Bagnasco, GR24, Il Sole 24 Ore. Per un giorno la Juventus, da squadra bianconera, si è trasformata in verde, con una cerimonia simbolica in cui sono stati piantati 26 alberi nel ritiro di Pinzolo, in provincia di Trento, è stato sancito che quello juventino sarà il primo raduno in Italia a zero emissioni di CO2. Il servizio. Il campionato, si sa, comincia da un buon allenamento e questa volta i bianconeri non si sono limitati a dare calcio al pallone, hanno deciso di piantare alberi. Così, vanga alla mano, hanno scavato, non proprio con le loro manine, ma con l'aiuto di mini escavatori della New Holland, e hanno messo giù 26 alberi, tanti quanti sono i giocatori in ritiro. A Pinzolo, provincia di Trento, è cominciato il raduno juventino, il primo in Italia a zero emissioni di CO2. Il meccanismo è semplice. Le emissioni di gas serra prodotte dall'intero staff Juventus, circa 13 tonnellate, verranno compensate dalla realizzazione di un progetto di forestazione nel parco Adamello Brenta. Ormai l'impegno è preso. Il bosco Juventus crescerà negli anni grazie ad altre iniziative di compensazione associate alle attività della squadra. Il ragionamento dovrebbe valere per tutti, ma per gli sportivi un po' di più. Il corpo sano ha bisogno di un ambiente pulito, altrimenti il cerchio non si chiude. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed era questa l'ultima notizia per GR Sport. Buona giornata.